as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi dovevamo parlare, ci doveva essere la seconda parte dell'intervento del segretario nazionale della FIOM che c'è stato durante l'assemblea in Bonfiglioli, quel giorno lì poi è andato anche in Toyota, noi siamo riusciti a rintracciarlo visto che è andato da me in Bonfiglioli, ha fatto un bellissimo intervento che è durato tantissimo, l'abbiamo diviso in due parti, oggi doveva esserci la seconda parte, ma dobbiamo rimandare perché sono stato la settimana scorsa alla Tracmec di Mordano vicino a Imola, una fabbrica metalmeccanica che fa sottopiani per cingolati, è una roba molto grossa dove ci sono 45 persone, lavoratori, famiglie che rischiano di rimanere in mezzo a una strada. Siamo stati là in solidarietà, abbiamo parlato con i lavoratori, abbiamo parlato con i funzionari sindacali che erano lì presenti, abbiamo partecipato in maniera attiva al presidio, molto attiva, e insomma ci è servito tanto. Di presidi ne abbiamo fatti moltissimi purtroppo in questi anni, battaglie su battaglie, ormai sono 25 anni che facciamo battaglie qua nel territorio, e questa qui è una delle tante battaglie. Adesso, prima dell'intervista che abbiamo fatto a Marco Valentini, bellissimo pezzo, oggi la musica è femminile, sono due bellissimi pezzi che non sono stati consigliati da me, le nostre collaboratrici che ci aiutano a selezionare la musica alcune volte si fanno sentire, ci mandano della musica da mandare in radio, perché dicono che metto sempre la solita, forse hanno ragione. Questo qui è un pezzo bellissimo, e poi ci sarà un altro alla fine dell'intervista a Marco Valentini, segretario della FIOM di Imola, che era lì con noi al presidio, e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Come va, come va, come va. Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va, come va, come va, come va quell'amore? Sei più fatto sentire, no, ma dimmi come va, come va, come va, come vedi il futuro? Vuoi cambiare mestiere, no, ma dimmi come va, come va, come va, ti fa ancora le canne, non ti vengo le pare, no, ma dimmi come va, come va, come va, l'altro giorno mi hai detto che volevi morire. Guarda come scorre il fiume fantasse, cadono le foglie se non scosto il sole, so passa la neve. Sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia. Però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto. L'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole in mutande. La vita degli altri, il pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro. E anche se male, riaffronto il discorso. Come va? Come va? Come va? Come va quell'amore? Sei più fatto sentire, no, ma dimmi come va? Come va? Come va? Come vedi il futuro? Vuoi cambiare mestiere? No, ma dimmi come va? Come va? Come va? Ti fa ancora le canne? Non ti vengo le pare? No, ma dimmi come va? Come va? Come va? L'altro giorno mi hai detto che Ecco qua, siamo qui alla Trackmech di Imola, un'azienda metalmeccanica che fa sottocarri cingolati. Siamo qui in presidio, possiamo chiamarlo un vero e proprio presidio, un blocco in realtà della Trackmech. Adesso qui abbiamo il segretario che ci spiegherà questa vertenza, questa lotta, questa battaglia che stanno facendo qui ad Imola. Sì, Marco Valentini, segretario della FIOM CGL di Imola, in realtà l'azienda è sul territorio di Mordano, che comunque fa parte del circondario imolese, quindi è un'azienda storica che produce da anni sottocarri e che non sono a uso militare, questo è giusto anche specificarlo, cioè sono sottocarri che vengono usati soprattutto per quanto riguarda l'estrazione mineraria o comunque operazioni nell'edilizia. I lavoratori sono in sciopero, siamo in sciopero già da più di 15 giorni con un presidio permanente su 24 ore, con un'articolazione appunto dello sciopero, in quanto l'azienda il 16 di aprile ha comunicato che praticamente vuole spostare la produzione in altre parti del mondo, soprattutto nelle parti asiatiche, quindi soprattutto la Cina. Quindi noi siamo con un presidio permanente qui perché giustamente e chiaramente abbiamo richiesto già più volte all'azienda di ritirare la procedura avviata e quindi di aprire una trattativa con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, perché la nostra intenzione è quella di mantenere comunque l'occupazione sul territorio e soprattutto di mantenere il sito produttivo. All'interno le maestranze che sono presenti sono maestranze con tanta esperienza e con tanta professionalità alle spalle, e abbiamo anche delle maestranze che sono abbastanza avanti con l'età, quindi c'è un problema proprio anche di tenuta sociale rispetto a quelli che sono i lavoratori impegnati all'interno di Trackmech. Abbiamo avuto da parte loro delle risposte e praticamente risposte che sono state sempre nel vago, e soprattutto abbiamo avuto di fronte una proprietà tedesca e il temporary manager, lo chiamano, che sta gestendo questa transazione, la chiama lui, che si è sempre posto con una certa arroganza. Quindi i lavoratori sotto questo aspetto stanno rispondendo bene, gli scioperi stanno riuscendo, il presidio è permanente H24, noi staremo qui fino a quando l'azienda non faccia un passo di indietro o quantomeno un passo di lato in modo da avviare insomma una trattativa per provare di mantenere il sito e di andare avanti. Allora io voglio capire, Marco, cosa c'è dietro questo spostamento? Allora, le ragioni dell'azienda, che poi per me non ci sono mai le ragioni dell'azienda, secondo me, dal mio punto di vista non esiste la delocalizzazione. Loro hanno parlato di spostamento causato da che cosa? Hanno dato delle motivazioni? Anche lì, come dicevo prima, siamo sempre nel vago, perché anche sulla procedura stessa in realtà parlano di una situazione congiunturale del mercato, quindi noi li abbiamo ribadito già durante gli incontri, quello del 16 in primis, perché lì naturalmente quando ci ha comunicato la notizia sono già partite, diciamo, è già partita la protesta da parte nostra, però anche lì il discorso congiunturale. E noi gli abbiamo detto: guarda, se è un discorso legato alla congiuntura del mercato, ci sono gli ammortizzatori sociali. Quindi l'obiettivo dell'azienda non è quello di, diciamo, di portare avanti o di rispondere al mercato odierno. L'obiettivo dell'azienda è proprio quello di delocalizzare la produzione che si fa qui in Cina, a questo punto. Quindi è un progetto proprio di un vero e proprio progetto di delocalizzazione. Tra l'altro, ecco, questo detto prima, noi avevamo avuto degli incontri intermedi tra uno e il 21 marzo, quindi prima del 16 aprile, dove avevamo nasato dei cambiamenti che tra l'altro ci hanno comunicato in maniera molto arrogante, anche lì cambiamenti legati proprio alla proprietà del gruppo tedesco, perché qui il gruppo che gestisce, il gruppo Bauer, che ha sede in Germania, ha cambiato la proprietà senza comunicare tra l'altro nulla né all'RSU né alle organizzazioni sindacali, quindi motivo in più che ha fatto insomma anche arrabbiare e incavolare i lavoratori. E tra l'altro il 16 di aprile paradossalmente dovevamo iniziare a discutere anche per il rinnovo del contratto progetto integrativo aziendale che è presente, e quindi invece si sono presentati dalla Germania comunicandoci appunto i 45 licenziamenti collettivi, quindi l'intera forza lavoro. Ma loro comunque qui hanno una filiale, hanno un negozio, no? Se non mi sbaglio, la BMI, insomma la Bauer, che vende questi prodotti qua vicino. Sì, loro hanno allora, l'unica unità produttiva in Italia per quanto riguarda i sottocarri da estrazione è qui alla Trackmec. Però all'interno del gruppo, quindi sempre gestita dal gruppo Bauer, c'è anche una filiale che è nel territorio di Imola, dove lì è presente la Bauer Macchine Italia, che è un'azienda che fa solamente commercializzazione del prodotto, quindi in realtà non direttamente legata alla Trackmec, perché commercializza il prodotto rispetto a quelle che sono le indicazioni di casa madre, però comunque abbiamo un altro diciamo stabilimento, altri uffici su Imola che gestiscono appunto il commercio dei carri e dei sottocarri. Lui, se non mi sbaglio, è un immobiliare, non è un industriale il proprietario. Quello che ci ha comunicato durante gli incontri appunto che abbiamo avuto con l'azienda su quelle che potevano essere le informazioni, ma sono arrivate informazioni naturalmente a giochi già fatti, quello che ci ha comunicato l'attuale amministratore delegato ci ha detto che chi ha acquisito la proprietà al 75% è un signore tedesco che praticamente fino adesso ha fatto sempre l'immobiliarista e da qualche anno si è buttato sull'acquisizione appunto di attività produttive, quindi anche lì c'è un ragionamento che noi abbiamo approfondito con i lavoratori, perché ci sembra abbastanza inusuale che uno che ha sempre fatto attività legate all'immobiliare si butti poi nella produzione, poi insomma, i dubbi si sono incrementati. Infatti il dubbio che io ho, se lui, metti caso, ha questo negozio, questo centro, no, di vendita, di affitti, che penso che affitteranno questi mezzi agli imprenditori, che è in affitto lui stesso, questo terreno qui, questi capannoni, potrebbero servirgli per una speculazione immobiliare, tipo spostare qui? No, è una mia ipotesi, no? Volevo capire se questa cosa qui, anche perché potremmo intervenire su questo, no? Diciamo che qui non bisogna mai escludere nulla dal campo, nel senso che sicuramente gente che è abituata, no, a questo tipo di manovra. E dire se qui, cioè, è chiaro che c'è il dubbio, perché qui la proprietà effettivamente della Trackmec e della proprietà del gruppo, e hanno quest'altra sede su Imola, che invece, dove in questa sede pagano l'affitto, è chiaro che una riflessione l'abbiamo fatta, e cioè un'azienda che comunque ha un gruppo che ha un capannone di proprietà che sta dismettendo e ha un altro capannone invece dove paga l'affitto, dove paga l'affitto in questo capannone dello stesso gruppo, ci fa anche ipotizzare il fatto che potrebbero fare delle azioni anche legate alla speculazione. È chiaro che quella roba lì la stiamo verificando, la stiamo monitorando. L'unico dato certo, purtroppo, è che in un modo o nell'altro queste 45 persone, 45 famiglie si troveranno a fine procedura, probabilmente con una lettera di licenziamento, e quindi dove ci stiamo concentrando è la tutela dei posti di lavoro di queste persone qui. Certo, è la cosa più corretta e giusta, noi condividiamo, siamo qui insieme a voi. Per il futuro avete degli incontri in programma? In realtà il primo incontro presso la città metropolitana di Bologna, con la presenza anche dell'assessore regionale Paglia, è stato già fatto a fine aprile. E, diciamo, è stata una fumata nera, diciamo, visto che siamo anche in tema, no? È stata una fumata nera, perché in realtà si sono solamente mantenute le posizioni, con una mediazione comunque del tavolo importante in quel caso lì, però non c'è stato nessun tipo di trattativa. Abbiamo un nuovo incontro il 21, dove un nuovo incontro che ancora però non è stato confermato, in quanto è partita la richiesta del tavolo, in questo caso la richiesta è stata fatta direttamente in regione. Ecco, io devo dire comunque che i lavoratori, le lavoratrici, ma anche noi come organizzazioni sindacali, e questo devo ringraziare le istituzioni, perché hanno da subito dimostrato piena vicinanza alle persone e soprattutto si sono resi disponibili su tutti i livelli, sia nell'ambito locale che nell'ambito regionale. E tra l'altro qui c'è stato anche un senatore della Repubblica che è venuto a incontrare, a parlare con i lavoratori, si sono resi disponibili a 360 gradi a provare a risolvere questa vertenza qui. Certamente se la politica vuole fare qualcosa dovrebbe impedire queste delocalizzazioni e soprattutto speculazioni, soprattutto quando si ha a che fare con l'immobiliarista, perché la GKN insegna e anche altre aziende in cui in realtà questi cavalieri bianchi arrivano, comprano e poi speculano e si perdono posti di lavoro. Esatto, sì, e questo è assolutissimamente da evitare. Devo dire che a tutti i livelli, ripeto, come istituzioni sono ben consapevoli di quello che sta avvenendo avanti e che stanno provando di portare avanti, e ripeto, noi abbiamo il sostegno da parte loro. Io mi aspetto che se dovesse essere confermato il tavolo del 21 in regione, dove noi comunque saremo presenti anche con i lavoratori, perché verrà fatto sicuramente in presenza, perché spesso e volentieri le aziende tendono anche a fare incontri in via telematica, quindi sarà fatto in presenza, dove cercheremo anche lì insieme ai lavoratori di portare nei tavoli le nostre rivendicazioni, che ripeto sono le rivendicazioni giuste, sane, e del mantenimento del reddito di 45 famiglie che abbiamo qui sul territorio. Certamente, questa è la cosa più importante. Noi saremo qua sempre con voi e saremo anche dovunque voi sarete per la battaglia, noi ci siamo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Meses y medio y te me fuiste entero. Ya no quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido como la hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes sin dormir. Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Ya la la la la. Ya la la la la. La la la la la. Ya la la la la. Dime que volverás. Dime que volverás. Dime que volverás. Dime que volverás. Le monde était plus simple, nous ne serions jamais nés. Et moi je ne t'aurais pas aimé comme je l'ai fait. Les fleurs du jardin ont séché, le printemps nous a quittés. Le soleil est caché dans mon sac, reviens je t'attends. Ay, que tortura esta, me tienes si. Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Ya la la la la. La la la la la. Ya la la la la. Ya la la la la. Dime que volverás. Dime que volverás. Dime que volverás. Pra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p abbiamo ascoltato questo meraviglioso pezzo, che fa tanto riflettere. Abbiamo ascoltato prima di questo meraviglioso pezzo musicale, abbiamo ascoltato Marco Valentini, segretario della FIOM di Imola. Con lui abbiamo presidiato al Tracmec, insieme ai lavoratori della Tracmec, per chi si fosse collegato solamente adesso, stiamo parlando di un'azienda della zona dell'Imolese, metalmeccanica pesante, che fanno basi per cingolate, e niente, sono veramente in una situazione difficile, una classica situazione che non sappiamo se abbiamo a che fare con una delocalizzazione più speculazione immobiliare, molto probabilmente può essere, nessuno ha la verità in tasca, che ci sono entrambe le cose. Sicuramente il lavoro è molto calato, una cosa che notiamo è che le fabbriche, non tutte, ma la stragrande maggioranza delle fabbriche meccaniche vengono delocalizzate, assistiamo a un piano piano, a sempre un calo di produzione. Pensate che adesso loro fanno un di questi cingolati che la settimana, una volta facevano uno al giorno, sono la metà di quelli che erano un po' di anni fa. Nel territorio di Imola abbiamo visto che tantissime aziende hanno perso tanti lavoratori, sono chiuse piano piano, e questa è una di quelle. Un grande gruppo è acquisito da un immobiliarista che si è messo a fare l'industriale. Ecco, noi siamo al fianco dei compagni di Imola, la FIOM non molla il pezzo, siamo stati lì davanti e siamo stati, sono cose che, se uno vuole sapere cosa succede nei presidi, deve venire a trovarci quando siamo davanti alle fabbriche che stanno per chiudere. Diciamo che io dico a tutti, fatevi un giro a Tacmec, sono sempre i lavoratori, saranno in presidio, noi come delegati della FIOM ogni tanto andiamo a trovare, portiamo la solidarietà e anche presenza e anche un aiuto a risolvere alcuni problemi che quando c'è un presidio ci sono sempre. Ora, che so dire? Diciamo che la situazione è molto molto grave. Il rischio è che più si andrà avanti, tra guerra, dazi e tutto il resto, assisteremo a tantissime delocalizzazioni. Assisteremo alla distruzione del tessuto industriale di questo paese. L'Italia in questo momento rischia davvero tanto. La Tacmec è una delle tante, ma è anche il segnale d'allarme che qualcosa sta per cambiare in maniera radicale. Le produzioni si stanno spostando sempre all'estero, le produzioni all'estero, il problema è che non sono più di bassa qualità. In questo caso i lavoratori mi dicono che non è che vengono prodotti in maniera così perfetta in Cina e negli altri paesi, però c'è un problema, che delocalizzano e poi dove possono fanno speculazione immobiliare dei terreni, dei capannoni e tutto. Dobbiamo impedirglielo, dobbiamo metterci di traverso, con una prospettiva di rivoluzionare in questo caso, perché bisogna veramente cambiare questo paese e non permettere più, come abbiamo detto più volte, che i padroni possano abbiano in mano la vita dei lavoratori, delle loro famiglie, poter decidere da un giorno all'altro di non avere più nulla, no? Spesso per un lavoratore meccanico il suo stipendio è gli dà la possibilità di vivere, senza quello si fa molta molta molta fatica, quasi impossibile, ecco, soprattutto a Bologna. Adesso vi saluto con questo pensiero, saremo sempre con loro, vi aggiorneremo in caso ci saranno novità, ci sentiamo alla prossima puntata. Quartieri, mangia! lavoratori.